Oggi è stato uno strano giorno, credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 sulla migrazione, sulla cucina e le tradizioni delle ricette di tutti i paesi che parlano un po' di noi, di identità, di cultura e di quello che ci accade quando cambiamo paese. Sull'Italia che cambia e cambia anche attraverso la presenza di persone che si trasferiscono in Italia per lavoro, per amore, per un'esigenza personale. Una di queste persone è l'ospite di questa sera, una scrittrice nata in India, trasferita in Italia qualche tempo fa. Buona serata a Laila Wadia. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi innanzitutto. Dicevamo, lei è nata a Bombay, in Italia ha scritto molti ormai libri, romanzi, libri di racconti, lavora anche come traduttrice e vive in una città già di confine, no? Trieste, poi ne parleremo. Ha scritto dei racconti che sono stati pubblicati nell'antologia Pecore Nere, ha scritto Amiche per la pelle, un libro dal titolo ironico Come diventare italiana in 24 ore, e quest'ultimo Su tutte le donne, un bel libro di racconti uscito per Barbera Editore. Laila Wadia, innanzitutto ci racconta qualcosa di lei dal punto di vista così della cucina. Noi invitiamo sempre a cena il nostro ospite e gli chiediamo di portare un piatto. Qual è il piatto che ci ha portato questa sera? Ma io, per me la cucina è soprattutto una condivisione, un abbraccio che si dà. Io mi ricordo l'abbraccio che mi ha dato la mia Trieste quando sono arrivata, perché sono arrivata giovanissima qui e come molti giovani, insomma, abituati alla cucina della mamma, non sapevo far niente, quindi mi nutrivo semplicemente di salumi. E un giorno la salumiera, questa simpatica signora, si è preoccupata per la mia salute e ha detto: guarda, ti do qualche piatto pronto. E mi diede il piatto tipico di Trieste, che è la iotta, è una minestra un po' particolare perché è fatto a base di fagioli con dei crauti acidi dentro. Io ovviamente non conoscevo questa pietanza, l'ho portata a casa tutta contenta che la signora era stata tanto gentile con me, l'ho aperto e pensavo che fosse andata male. E quindi gliel'ho riportato in negozio il giorno dopo, ho detto: mi dispiace tanto, ma la sua minestra è cattiva, è andata male. E si è fatta una grassa risata, questa signora fa: no, ma questo è il nostro piatto tipico di qua di là. E quindi per me veramente quello è stato la porta che mi ha aperto e al cuore dei triestini e degli italiani in generale. Un piatto un po' forte, insomma. Un piatto molto importante, sì. Tra l'altro leggevo che un suo racconto, Pollo al curry, era proprio dedicato, diciamo almeno nel titolo, a un piatto tipico del suo paese. Sì, avrei voluto forse diventare cuoca, quindi adesso per scaricare questa mia passione scrivo molto sulle ricette, che poi secondo me appunto è la base di tante esperienze della nostra vita. Questo curry di pollo era l'esperienza contraria, quando appunto un italiano entrava in casa di una famiglia indiana per la prima volta. Era un po' questo, l'italiano che non si doveva conquistare questa famiglia indiana e la signora indiana che aveva cucinato per il suo ospite, che la prima volta che veniva a casa sua, un curry. La cucina triestina rispecchia la realtà umana e storica di Trieste, città che ha accolto per secoli nel suo seno le genti e le tradizioni culinarie più diverse. Fra le minestre e le zuppe particolarmente apprezzate ci sono la iota a base di crauti, pancetta, fagioli e patate e il brodetto triestino, generalmente preparato con pesci di piccola dimensione, cui vengono aggiunti molluschi e crostacei. Prelibati gli gnocchi, fra i quali quelli di fegato, diffusi anche in Istria e in Friuli. Gli gnocchi de susini, preparati con prugne snocciolate, patate lesse, uova, cannella e un pizzico di zucchero. Fra i piatti di pesce bisogna citare il baccalà al pomodoro, cotto al forno con acciughe e abbondante prezzemolo. Varia e di alta qualità l'offerta di dolci. Fra questi si segnala la putizza, dolce di pasta lievitata simile alla gubana, ma dal ripieno molto più elaborato. Fra gli ingredienti vi sono rum, cannella, chiodi di garofano e noce moscata. Nel risvolto di copertina del suo libro Se tutte le donne, infatti lei, raccontando se stessa, una breve biografia, dice proprio scrivo racconti, romanzi e ricette. Sì, cioè, la mia passione ultimamente sono le poesie di cibo, quindi... Le poesie di cibo? Sì, perché una volta io sono arrivata in questo paese più di 20 anni fa e dove non si trovava niente, non si trovavano le ricette, cioè gli ingredienti, no? Io mi ricordo, partivo dall'India con 33 barattoli di spezie. Adesso trovo tutto quello che voglio, però non trovo il distillato di quelle ricette della mia gioventù. Allora me li sto rielaborando. E rielaborare il cibo, perché appunto è sempre un distillato di una memoria e un ricordo, un aroma, e secondo me appunto le sto buttando fuori in poesie. Ci racconta appunto come mai si è trasferita in Italia, da Bombay mi pare di capire, dove è nata? Ridendo dico che è un po' per destino, però sa Valentina, cioè penso che una persona... Nessuna persona lascia il suo paese se è felice, quindi c'è sempre una frustrazione di base, quindi era una frustrazione mia, era una frustrazione di donna che Quanti anni aveva? Io avevo 20 anni, la società indiana è molto rigida, o almeno lo era quella volta, io soffrivo un po' questa mia condizione femminile. Adesso sono via da più di 25 anni, vedo che la situazione invece di migliorare non è, non sta migliorando, e ahimè io ho vissuto in tanti paesi del mondo, vedo che la situazione è uguale dappertutto, quindi un'altra mia valvola di sfogo è scrivere storie di donne, e proprio per rafforzare questa rete che dovremmo creare transculturale, transnazionale, tra l'essenza femminile, non delle donne, tra l'essenza femminile degli esseri umani. Io sono partita da un paese insomma abbastanza difficile, dove sì, le donne sono anche venerate, anche deificate, anche il primo ministro donna, però non è una condizione che poi è diffusa a livello più generale, cioè a me non interessa che in un paese alcune donne abbiano potere o importanza, deve essere una condizione estesa a tutti, no? E questo mancava, cioè questo mi faceva soffrire, non solo per me, perché io venivo da un contesto molto agiato, molto privilegiato, soffrivo perché c'era questa rigidità, non si poteva fare niente per gli altri. Anche in Italia purtroppo assistiamo quasi tutti i giorni a episodi di violenza sulle donne. Poco fa c'è stato questo processo a quest'uomo che ha sfregiato Lucia Annibali con l'acido, no? Una pratica tra l'altro che non era neanche conosciuta in Italia, forse appartiene più a altri popoli, adesso invece è stata tristemente adottata anche da noi. No, infatti, cioè, questa è il brutto della globalizzazione, no? Cioè, si sta facendo l'emulazione di questa violenza, soprattutto sul corpo delle donne, che è una cosa allucinante, intollerabile, insomma. E questa della condizione delle donne mi sembra sia un tema che ricorre nei suoi libri, già dal titolo di questa raccolta di racconti, Se tutte le donne, che è ripreso, no? È stato suggerito da Giovanni De Mauro, da un suo scritto, no? Che lei aveva letto, che l'ha colpita molto. Sì, Giovanni De Mauro diceva che appunto se tutte le donne facessero sentire la propria voce, questo era il termine, cioè l'ultima riga di questo suo editoriale, no? E io ho pensato proprio a questo, che ognuno nel suo piccolo, e purtroppo non tutte le donne hanno la possibilità di raccontarsi, e allora io ho preso tante voci che sentivo intorno a me, sperando di raccontare queste storie. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 sugli italiani con radici altrove. E questa sera siamo con Laila Wadia, una scrittrice originaria dell'India ma trasferita in Italia da più di 20 anni, che ha radici quindi a Bombay. Ci stava raccontando un po' il suo interesse per la condizione femminile, che l'ha spinta anche a scrivere questa raccolta di racconti, Se tutte le donne, per Barbera Editore. È un libro tutto sommato anche ironico, c'è sempre una vena nella sua scrittura ironica, forse un po' più forte nei suoi primi libri, adesso ci sono anche degli spunti più drammatici, più dolorosi, però rimane anche una comicità di fondo. Sì, perché secondo me se si ride insieme si abbattono tanti muri, no? Cioè il razzismo esiste proprio quando non c'è questa sintonia, forse anche a livello che non si è sullo stesso piano, sulla stessa onda. Secondo me se nasce un sorriso in comune, quello è veramente, vuol dire che si fa parte della stessa realtà, si fa parte della stessa società, si fa parte degli stessi sogni. Trieste è una città di confine per eccellenza, direi, in Italia. Come mai si è fermata proprio a Trieste? C'era un progetto in questo o è stata una casualità? No, è stato tutta una casualità, l'Italia è stata una casualità, insomma, pensavo di fermarmi il tempo di un breve corso di italiano a Venezia e poi mi sono innamorato di questo paese, mi sono innamorato di un uomo, cioè la vita ti succede mentre stai facendo altri piani, quindi posso dire a distanza di tanti anni, viva Dio, perché veramente quella volta lo pensavo fortemente che l'America sta qua e sono ancora convinta che sia vero. Cioè l'Italia e l'America che sognano tanti, solo che appunto non ce ne rendiamo sempre conto. Ce ne rendiamo conto quando magari viaggiamo, vediamo altre realtà, cioè quindi sempre a buttare giù questo paese a me fa anche un po' dispiacere. Trieste ha tanti tipi di stranieri, è molto tollerante in questo, è una metafora positiva per l'Italia perché innanzitutto ha un grandissimo polo scientifico, quindi arrivano scienziati da tutto il mondo, soprattutto da paesi in via di sviluppo. E quindi c'è lo straniero, la persona di pelle diversa sull'autobus molto spesso è il professore. Poi ci sono i lavoratori transfrontalieri che insomma sono quelli che vengono e a fare più che altro i servizi nelle case, e poi c'è una grandissima comunità di gente che lavora nell'edilizia dai paesi soprattutto balcanici, e devo dire che penso che siano molto ben inseriti, cioè non avverto problemi, almeno dal mio osservatorio, e vedo che Trieste è una ricetta che funziona per vari modi, per vari motivi, proprio forse perché anche per quello che diceva lei, perché ha sofferto molto, ha conosciuto molto, c'è stato questo confine doloroso e poi c'è stata una cosa a Trieste che insomma non penso che sia capitato in nessun'altra città d'Italia. Trieste ha colto e moltissimi profughi istriani, dalmati e fiumani dopo la seconda guerra mondiale, quindi italiani che hanno dovuto lasciare le loro case, insomma, e si sono ritrovati stranieri in un'Italia per un certo periodo. Trieste conosce bene questa realtà, penso che ne abbia fatto tesoro e cerca di, insomma, di non ripetere tanti errori che sono stati fatti magari in altri posti, in altri tempi. Nel suo libro Come diventare italiani in 24 ore, no? Approfondisce un po' con ironia gli stereotipi della nostra società. Ce ne racconta qualcuno? Ma io quando sono arrivata qua, ovviamente, il mio, quello che chiamo QI, che è la quoziente di italianità che io mi sono data, veniva misurata dagli altri in base alle mie conoscenze. Uno di Sandokan, e tutti mi dicevano: ma tu conosci Sandokan? E io dicevo: ma chi è sto Sandokan? Perché da noi poi il Kabir Bedi era conosciuto per altro, insomma, Sandokan non è mai arrivato in India, poi lui ha fatto più successo, penso, in Italia che altrove. Un'altra cosa è che loro si meravigliavano che io fossi di pelle chiara e non portassi il sari, non portassi il puntino in testa, quindi, cioè, queste erano tutte curiosità che io dicevo: ma veramente, insomma, da dove vengo io, poche donne si mettono il sari, poche donne hanno il puntino in testa, cioè forse perché venivo dalla metropoli, però questa era una cosa divertente che io, insomma, non rientravo nello stereotipo dell'indiana. Sono state mai occasioni in cui invece si è sentita indiana in Italia, si è sentita diversa, l'hanno fatta sentire diversa? Ma se intende con l'accezione positiva, mi sento diversa ogni giorno, ma ognuno, guai se, cioè, ognuno si dovrebbe sentire diversa. Io mi sento diversa anche per il profumo che porto in tasca, io porto sempre un semino di cardamomo, per ricordarmi che appunto vengo da lontano e cerco di non dimenticarmelo, perché poi, insomma, quando sono qua spesso dimentico anche le difficoltà che ci sono altrove. In accezione negativa, certo, sai, il razzismo è una brutta bestia, soprattutto quando insita in situazioni dove non dovrebbero essere, diventa un po' triste, cioè parlo magari a livello istituzionale o a livello di diritti o a livello di semplicemente all'inizio, quando non ero sposata, non avevo il passaporto italiano, attraversare un confine per il problema del permesso di soggiorno, cioè sono cose che uno non si rende conto. Per me era l'Italia è stata una prigione per molti anni, perché io potevo lasciarla 3 volte l'anno. Qui a Trieste la gente va a 20 chilometri in Slovenia a fare la spesa, cioè era diventata veramente un po' una gabbia burocratica. Lei parla un perfetto italiano, ormai da tantissimo in Italia, è cittadina italiana, ma scrive anche in italiano, no? Quindi è diventata scrittrice proprio con questa lingua non sua. Com'è stato all'inizio il rapporto con la lingua? Ma io intanto non mi definisco scrittore proprio per questo. Io voglio conservare la mia tradizione che viene da molto lontano e io mi definisco sempre una narrastorie. E voglio conservare questa dimensione di oralità, di socialità della mia scrittura, di persona semplice che va da villaggio in villaggio a portare testimonianza di quello che ha visto altrove. Cioè gli scrittori, il scrittore forse si nasce, non lo so. Cioè, lei non si sente nata scrittrice? No, io mi sento nata proprio narrastorie, voglio stare seduta attorno a un fuoco a raccontare quello che ho visto in modo semplice, in modo molto senza pretese. Cioè, secondo me uno scrittore prende una bella storia, poi la abbellisce e con la bella scrittura. Per me è molto più importante la storia che la scrittura in questo momento. E da poi, persona che è arrivata in un nuovo paese, la lingua quanto l'ha aiutata a sentirsi parte dell'Italia? Assolutamente. La lingua è emancipazione. Se tu non sai esprimerti, cioè come vuoi difenderti, come vuoi farti capire, cioè io ho sofferto tantissimo questo non poter comunicare a pari livello, cioè se tu non ti puoi far capire a pari livello tu sarai sempre subalterno. Non smetto mai di dirlo a chi viene da lontano, cioè imparate la lingua perché è il vostro miglior amico, insomma. Forse questo è anche la difficoltà, il gap di alcune donne che straniere che vivono in Italia, che magari sono relegate in casa perché proprio non conoscono la lingua, ma non solo donne, anche uomini alle volte, no? Penso ad esempio agli operai, in questo caso di Prato, operai cinesi che spesso quando non conoscono la lingua sono ancora di più schiavi di chi se ne approfitta. Assolutamente, secondo me deve essere obbligatorio conoscere la lingua, bisogna non dare permesso di soggiorno se uno non conosce la lingua, non per insomma altro che per autoprotezione, appunto devi conoscere le leggi, devi conoscere i tuoi diritti e ti puoi dover difendere, cioè usando la lingua del posto. Tornando a temi più leggeri, diceva che ha sempre un seme nella sua tasca, le radici del suo paese in tasca, no? Da dove le arriva questo interesse per la cucina, ad esempio? L'interesse della cucina mi arriva dall'infanzia, insomma. Io avevo tre nonne, perché mia mamma è stata poi, tra l'altro, una delle prime donne indiane a essere divorziata. Questa era un'altra difficoltà iniziale. Quindi avevo tre nonne perché avevo la madre di mio patrigno, che era italiana, romana, trasferita in India e viveva in India da dopo la guerra. E quindi avevo queste tre cucine molto diverse, queste tre mie nonne che facevano la guerra tra di loro a suon di pentole, sì. Di mestoli. E quindi ho imparato. Quindi cucina romana? Cucina romana, questa donna meravigliosa, che infatti io le ho scritto anche un racconto su di lei. Lei aveva questo libro, Il talismano della felicità di Ada Boni. Un classico delle ricette di quegli anni. Veniva a casa nostra tenuta come una reliquia, sotto un manto di velluto, e veniva tirato fuori per sfornare questi piatti strepitosi, cioè infatti... Il ricordo più bello di questa mia nonna sono gli agnolotti che lei faceva usando 12 tipi di carne macinata, rigorosamente fatti a mano, e quindi quello è un altro sapore della mia infanzia. Un altro il sapore dell'India, dell'altra nonna, e la terza nonna è sempre indiana? Sì, lei era molto indiana e lei usava la cucina, infatti questa è un'altra cosa molto, molto bella, molto triste della cucina, soprattutto della donna indiana, la cucina come terapia. Mia nonna, quest'altra, insomma, aveva un marito abbastanza violento e lei l'unico suo momento di svago era cucinare, cioè quindi più si dilungava in cucina più aveva, insomma, meno da soffrire altrove, poverina. Quindi io mi ricordo che lei ci faceva questi dolci, ci inondava di dolci, dicevamo basta nonna, non ne possiamo più di mangiare. Per lei invece era una protezione, la cucina era l'unico posto dove era protetta. Iota di Trieste, minestra di fagioli, crauti e patate. Ingredienti per 4 persone. 500 g di crauti acidi, preferibilmente sfusi. 200 g di fagioli. 4 patate, 2 foglie di alloro, cumino. 4 spicchi di aglio, sale, pepe, olio, farina. La sera prima mettere i fagioli a bagno in acqua fredda. In una pentola far scaldare l'olio e far rosolare 2 spicchi di aglio schiacciati fino a portarli a doratura, quindi eliminare l'aglio. Aggiungere i carauti e coprirli a raso con acqua. Aggiungere un pizzico di cumino, sale e pepe. Far consumare a fuoco lento per circa mezz'ora. In un'altra pentola cucinare i fagioli lavati e scolati con il brodo vegetale e due foglie di alloro a fuoco lento per un'ora e un quarto. Tagliare le patate a pezzetti, aggiungerle al brodo e fagioli e proseguire la cottura per 15 minuti. Togliere dal fuoco e passare fagioli e patate fino a ottenere una purea omogenea. Aggiungere la purea così ottenuta ai crauti preparati in precedenza. A parte, in un piccolo pentolino, soffriggere i rimanenti spicchi di aglio schiacciati in uno o due cucchiai di olio. Eliminarli una volta dorati. Stemperare nell'olio la farina mescolando attentamente per evitare la formazione di grumi. A tostatura avvenuta, aggiungere la farina alla minestra. Aggiungere sale e pepe e servire calda accompagnata da crostini di pane. L'appuntamento è sempre sulle frequenze di Radio 24, sabato prossimo alle 23 per un'altra storia italiana con radici altrove. Buona serata a tutti, da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.